Capitolo 25. I rapporti fra le due famiglie ormai erano tornati ad essere quasi gli stessi dell'autunno precedente, più di quanto i residui membri del gruppetto di allora l'avessero creduto possibile. Il ritorno di Harry Crawford e l'arrivo di William Price ne erano in buona parte responsabili, ma ancora più era dovuto alla grande tolleranza di Sir Thomas nei confronti delle sollecitazioni a intrattenere rapporti di buon vicinato che provenivano dalla canonica. La sua mente, ora libera dalle preoccupazioni che l'avevano afflitta in un primo momento, trovava i Grant e i loro giovani ospiti degni di un frequente scambio di visite. E benché fosse assolutamente superiore al tramare e all'architettare in vista dell'una o dell'altra vantaggiosissima combinazione matrimoniale che avrebbe potuto concretarsi per alcune delle persone a lui più care, e anzi disdegnando come cosa meschina il prospettarsi nell'eventualità, non poteva non accorgersi, pur serbando il suo nobile distacco, che Mr. Crawford era manifestamente sollecito verso sua nipote e forse non si tratteneva, benché inconsciamente, dalla consentire più volentieri ai reciproci inviti per quel motivo. Tuttavia la sua pronta accettazione di un invito a pranzo in canonica, quando l'invito globale esteso a tutta la famiglia fu finalmente arrischiato dai Grant dopo molte considerazioni e molti dubbi, poiché Sir Thomas sembrava così maldisposto e Lady Bertram era tanto indolente, dipese dalla convinzione che si trattava solamente di un gesto di buon vicinato e di buona volontà e non aveva nulla a che fare con Mr. Crawford, che andava considerato semplicemente come parte di un simpatico gruppo di persone. E infatti fu appunto nel corso di quella prima visita che egli, per la prima volta, cominciò a pensare che chiunque fosse solito fare certe oziose osservazioni avrebbe pensato che Mr. Crawford era un ammiratore di Fanny Price. La riunione fu generalmente giudicata piacevole, essendo composta in giusta proporzione di persone alle quali piaceva parlare e di altre che preferivano ascoltare, e il pranzo fu appropriatamente elegante e abbondante, secondo lo stile abituale dei Grant, e troppo corrispondente alle abitudini quotidiane di tutti i presenti per suscitare una qualsiasi reazione, se non in Mrs. Norris, che non poteva vedere senza irritarsi né quella grande tavola che aveva preso il posto della sua, né la quantità delle portate che vi comparivano. Non solo, ma trovava sempre modo di convincersi che l'andirivieni dei domestici alle sue spalle le procurava un certo incomodo, ed era sicura che fra tante pietanze qualcuna doveva per forza essere servita fredda. La sera risultò, come era stato combinato fra Mrs. Grant e sua sorella, che dopo aver formato un tavolino di whist rimanevano abbastanza persone per organizzare una partita fra giocatori non appaiati, e poiché tutti erano pienamente consenzienti e non insistevano con personali preferenze sulla scelta del gioco, a differenza di quanto sempre avviene in simili circostanze, Speculation fu scelto con la stessa prontezza con cui si era scelto il whist. E Lady Bertram si trovò ben presto nella imbarazzante necessità di operare una scelta e di optare per il whist o per l'altro gioco. Fortunatamente Sir Thomas era lì vicino. «Cosa devo fare, Sir Thomas, whist o speculation? Quale dei due mi divertirà di più?» Sir Thomas, dopo un attimo di riflessione, le consigliò il secondo. Personalmente era un buon giocatore di whist e forse pensò che non lo avrebbe molto divertito l'averla come compagna. Benissimo, fu la placida risposta di sua signoria. Allora, Mrs. Grant, scelgo speculation se non le spiace. Non lo so giocare affatto, ma Fanny mi insegnerà. A questo punto Fanny intervenne protestando ansiosamente una uguale ignoranza. Non lo aveva mai giocato né visto giocare in vita sua, e Lady Bertram conobbe nuovamente un momento di indecisione, ma poiché tutti le assicurarono che niente poteva essere più facile, che effettivamente si trattava del più facile dei giochi di carte, ed Harry Crawford si fece avanti, chiedendo caldamente il permesso di sedere tra sua signoria e Miss Price in modo da consigliarle entrambe, la difficoltà fu presto appianata. Sir Thomas, Mrs. Norris, il dottore e sua moglie presero posto al tavolino, dove il gioco richiedeva maggiore impegno e dignità, e gli altri sei, sotto la guida di Miss Crawford, si disposero intorno all'altro, una sistemazione ideale per Harry Crawford, che si trovava a fianco di Fanny e con le mani perennemente occupate, visto che doveva badare alle carte di due persone oltre che alle proprie, poiché, sebbene dopo un paio di minuti Fanny fosse perfettamente padrona delle regole del gioco, egli Doveva rendere più audaci le sue contrattazioni, stimolare la sua avarizia e indurire il suo cuore. Tutte cose che, specialmente quando il suo diretto avversario era William, costituivano un'impresa di una certa difficoltà. Quanto poi a Lady Bertram, dovette vigilare sulla sua reputazione e i suoi averi per tutta quanta la serata. E se gli riusciva di essere abbastanza pronto nell'impedirle di guardare le proprie carte quando la contrattazione aveva inizio, doveva consigliarla su cosa farne fino alla fine della mano. Era di brillantissimo umore, faceva ogni cosa con felice disinvoltura ed eccelleva in tutti i felici stratagemmi, le rapide trovate, la scherzosa impudenza che potevano dare brio al gioco. Il tavolo, cui sedeva, offriva nell'insieme un piacevolissimo contrasto con l'ininterrotta serietà e il composto silenzio dell'altro. Una prima e poi una seconda volta, Sir Thomas aveva cercato di sapere se la moglie si divertiva e aveva successo. Tutto inutile. Gli intervalli non erano lunghi abbastanza per concedergli il tempo che il suo fare misurato richiedeva, e si seppe pochissimo sulla situazione di lei, fino a quando, essendosi concluso il primo rubber, a Mrs. Grant fu possibile andarle vicino e complimentarla. Spero che sua signoria sia soddisfatta del gioco. Oddio, sì, molto divertente, uno stranissimo gioco. Non devo mai vedere le mie carte. Non so affatto cosa succede e Mr. Crawford fa tutto il resto. Bertram, disse Crawford poco dopo, cogliendo l'opportunità di un leggero rallentarsi del gioco, non le ho detto quel che mi è successo ieri mentre tornavo a casa. Erano usciti a cacciare insieme ed erano nel mezzo di una buona galoppata, a una certa distanza da Mansfield, quando, accorgendosi che il suo cavallo aveva perduto un ferro, Harry Crawford era stato costretto a rinunciare e a rassegnarsi a tornare. Le ho detto di aver preso la strada dopo aver oltrepassato quella vecchia fattoria con gli alberi di tasso, visto che ho l'abitudine di non chiedere mai la strada. Ma non le ho detto che con la mia solita buona fortuna, poiché non commetto mai sbagli senza ricavarne un qualche vantaggio, a tempo debito mi trovai proprio sul posto che più di ogni altro ero curioso di vedere. All'improvviso, girato l'angolo di un campo ondulato e piuttosto scosceso, mi trovai nel mezzo di un villaggetto appartato, circondato da colline in leggero pendio. Davanti c'era un piccolo corso d'acqua da guadare e una chiesa che sorgeva su una specie di altura alla mia destra. Una chiesa che colpiva per le sue dimensioni e la sua bellezza così inattesa in quel luogo, e nessuna casa gentilizia in vista, nessuna, tranne quella che doveva essere la canonica, a un tiro di pietra dall'altura e dalla chiesa. Insomma, mi trovai a Thornton Lacey. Si direbbe di sì, disse Edmund. Ma che strada ha preso dopo aver oltrepassato la fattoria dei Sioux? Non rispondo a domande così insidiose e irrilevanti. D'altronde, anche se rispondessi a tutto quanto può essermi contestato in un'ora di tempo, lei non potrebbe mai dimostrare che non si trattava di Thornton Lacey, poiché quello è il posto, non v'è minimo dubbio. Dunque, ha chiesto informazioni? No, non ne chiedo mai. Ma dissi a un uomo che riparava una siepe che quello era Thornton Lacey e lui disse di sì. Lei ha una buona memoria. Avevo dimenticato di averle mai detto nemmeno la metà di quanto ha notato sul posto. Thornton Lacey era il nome del beneficio ecclesiastico che lo aspettava. Come ben sapeva Miss Crawford, che in apparenza concentrò tutto il suo interesse sulla contrattazione del fante di William Price. Bene, chiese Edmund, le è piaciuto quello che ha visto? Oh, davvero moltissimo. Lei è un giovane fortunato. Occorrerà almeno il lavoro di 5 stati prima che il luogo sia abitabile. Oh no, la situazione non si presenta poi così male. Il cortile della fattoria deve essere spostato, sono d'accordo con lei. Ma non vedo che ci sia altro da fare. La casa non è affatto in cattive condizioni. E quando il cortile sarà spostato, la via d'accesso alla casa sarà più che discreta. Il cortile della fattoria va eliminato completamente. E sostituito con una macchia d'alberi che impedisca la vista della fucina. La casa deve essere ristrutturata in modo da far fronte a est invece che a nord. L'ingresso e le stanze più importanti, voglio dire, devono guardare da quella parte dove la vista è veramente bella. Sono sicuro che la cosa è fattibile. E da quel lato deve essere tracciata la via d'accesso attraverso quello che per ora è il giardino. Deve essere sistemato un giardino nuovo laddove ora c'è l'area retrostante alla casa, il che le darà un bellissimo aspetto in pendio verso sud-est. Il suolo sembra proprio fatto per questo. Sono risalito per 50 yard lungo il sentiero fra la chiesa e la casa per guardarmi intorno e ho visto come dovrebbe essere sistemata ogni cosa. Niente di più facile. I prati, al di là di quello che sarà il giardino, come anche del giardino attuale, che si estendono partendo dal sentiero dove mi trovavo fino a nord-est, cioè fino alla strada principale del villaggio, dovranno essere naturalmente senza soluzione di continuità. Sono bellissimi prati, piacevolmente sparsi di gruppi di alberi. Immagino che appartengano al dominio parrocchiale, se no lei dovrà comprarli. Poi c'è il corso d'acqua. Bisognerà farne qualcosa, ma che cosa con precisione non sono riuscito a decidere. Però mi sono venute due o tre idee. Anch'io ho due o tre idee, disse Edmund, e una di esse è che ben poco del suo progetto su Thornton Lake si sarà mai messo in pratica. Dovrò considerarmi soddisfatto con assai meno ornamenti e bellezza. Penso che la casa, con le sue dipendenze, possa essere resa confortevole e acquistare anche una certa area di dimora gentilizia senza spese eccessive, e ciò mi deve bastare. E spero che basti a tutti quelli che mi danno il loro affetto. Miss Crawford, messa allerta e leggermente risentita da un certo tono di voce e da un certo mezzo sguardo che accompagnarono le ultime parole con cui Edmund espresse la sua speranza, terminò affrettatamente la sua contrattazione con William Price e, assicurandosi il suo fante a un prezzo esorbitante, esclamò: Ecco, metterò in palio le mie ultime risorse da donna di carattere. Non amo agire con fredda prudenza, non sono nata io per starmene immobile senza far niente. Se perderò la posta, non sarà perché non ho lottato per vincere. Vinse la partita, ma questa vittoria non la compensò di quanto aveva pagato per garantirsela. Vennero distribuite nuovamente le carte e Crawford riprese a parlare di Thornton Lacey. Può darsi che i miei piani non siano i migliori possibili. Ho avuto solamente pochi minuti per visualizzare tutto l'insieme, ma lei deve farci un bel po' di lavori. Il posto lo merita e lei non si sentirà soddisfatto restando molto al di sotto di quanto se ne può ricavare. Chiedo scusa, ma sua signoria non deve guardare le sue carte, così le lasci posate davanti a lei. E il posto lo merita, Bertram. Lei parla di dargli una certa area di dimora gentilizia. Bene, questo si otterrà togliendo di mezzo il cortile della fattoria, poiché indipendentemente da quel terribile inconveniente, non ho mai visto una casa che abbia più intrinsecamente l'aria di una residenza gentilizia, il cui aspetto sia tanto superiore a quello di una semplice casa parrocchiale, ben al di sopra della spesa di poche centinaia di sterline all'anno. Non è un insieme di stanze basse, isolate, accozzate alla rinfusa con tanti tetti quante sono le finestre. Non è messa insieme con la pesante compattezza di una volgare fattoria, è una vasta casa con una struttura da maniero dai solidi muri, nella quale si suppone naturalmente che una rispettabile famiglia residente in campagna abbia vissuto di generazione in generazione almeno per 2 secoli, ed ora vi soggiorni spendendo dalle 2 alle 3.000 lire l'anno. Miss Crawford era tutto orecchi. Ed Edmund si mostrò d'accordo con quanto l'amico diceva. Dunque, per poco che faccia, non potrà non darle una certa area di dimora gentilizia, continuò Harry. Ma se ne può fare molto di più. Lasciami vedere, Mary. Lady Bertram offre una dozzina per quella regina. No, no, una dozzina è più di quanto valga. Lady Bertram non offre una dozzina. Non vuole averci nulla a che fare. Procedi, procedi. Con alcune delle migliorie che ho suggerito. Non pretendo che lei proceda secondo il mio piano, anche se dopo tutto dubito che un altro possa farne di migliori. Può darle un carattere più nobile, può portarla al livello di una vera e propria villa di campagna. Da abitazione di un semplice gentiluomo ne fa, grazie a giudiziose migliorie, quella di un uomo di buon gusto, colto, moderno, provvisto di importanti relazioni. Tutto questo può essere impresso letteralmente, impresso sulla casa. E la casa stessa assumerebbe un aspetto tale da indurre chiunque passi per la strada a classificare il proprietario come il maggior possidente terriero della parrocchia, soprattutto visto che nelle vicinanze non vi è nessuna autentica dimora che possa competere con questa. Circostanza, sia detto tra di noi, che accresce incalcolabilmente il valore di tale posizione dal punto di vista del privilegio e da quello dell'indipendenza economica. Lei la pensa come me, spero, rivolgendosi con voce gentile a Fanny. Ha mai visto il luogo di cui parliamo? Fanny si limitò a dargli una risposta negativa e, tentando di nascondere l'interesse che quell'argomento suscitava in lei, concentrò tutta la sua attenzione sul fratello, che cercava di portare avanti una contrattazione, imponendo le condizioni quanto mai svantaggiose e facendo di tutto per imbrogliarla. Ma Crawford intervenne. No, no, non deve cedere la regina. L'ha comprata troppo a caro prezzo. E suo fratello non offre nemmeno la metà del suo valore. No, no, signore, giù le mani, giù le mani. Sua sorella non si priva della regina. Il gioco sarà suo. Rivolgendosi nuovamente a lei, sarà certamente suo. E Fanny avrebbe tanto preferito che fosse di William, disse Edmund sorridendole. Povera Fanny, alla quale non si permette di barare contro se stessa come vorrebbe. Mister Bertram, disse Miss Crawford pochi minuti dopo. Sa che Henry è un così fantastico sistematore di giardini e parchi che lei non può assolutamente impegnarsi in niente del genere a Thornton Lacey senza accettare il suo aiuto. Pensi solo quanto è stato utile a Sotherton. Pensi a che grandi risultati si sono ottenuti là, grazie alla nostra visita, in una torrida giornata d'agosto, tutti in giro per la proprietà a vedere infiammarsi il suo genio. Là andammo e di là ce ne tornammo a casa e quello che vi fu fatto non è da dirsi. Gli occhi di Fanny si rivolsero a Crawford per un momento con un'espressione che più che grave era addirittura di rimprovero, ma nell'incontrare quelli di lui si distolsero immediatamente. Crawford, vagamente imbarazzato, scosse il capo in direzione della sorella e rispose ridendo: Oh, non posso dire che fu fatto molto a Sotherton, ma era una giornata torrida durante la quale ci siamo tutti rincorsi come fossimo balordi. E approfittando del brusio generale, aggiunse a voce bassa, rivolgendosi unicamente a Fanny, mi spiacerebbe di sapere la mia facoltà di progettatore giudicata in base alla giornata di Sotherton. Vedo le cose in modo molto diverso ora, non pensi che sono quale sembrai essere allora. Sotherton era una parola atta ad attirare l'attenzione di Mrs. Norris, che trovandosi proprio allora nell'ozio concessole dall'esserle toccata la parte del morto, grazie all'abilissimo gioco di Sir Thomas e suo contro il dottore e Mrs. Grant, esclamò dall'altra parte della stanza con insolita vivacità: Sotherton, quella sì che è una tenuta. E vi abbiamo passato una giornata incantevole. William, sei proprio sfortunato. Ma la prossima volta che verrai, spero che i cari Mr. e Mrs. Rushworth vi si trovino e sono certa di poterti garantire un gentile benvenuto da parte loro. I tuoi cugini non sono di quelli che trascurano i parenti, e Mr. Rushworth è un uomo perfettamente cortese. Ora sono a Brighton, sai, in una delle più belle case della città, che il grande patrimonio di Mr. Ashworth dà loro il diritto di occupare. Non so calcolare esattamente le distanze, ma quando tornerai a Portsmouth, se non è troppo lontano dalla tua strada, dovresti passarci e porgere loro i tuoi rispetti. E potrei darti un piccolo pacco da portare che desidero far giungere alle tue cugine. Sarei felice di farlo, zia, ma Brighton è dalla parte di Beachy Head. E anche se mi fosse possibile di andare così lontano, non potrei essere il benvenuto in un posto talmente elegante. Povero, insignificante guardia marina quale sono. Mrs. Norris stava iniziando un'ardente protesta, assicurandolo dell'affabilità sulla quale gli poteva contare, quando fu bloccata da Sir Thomas, che disse con fare autorevole: Non ti consiglio di andare a Brighton, William, poiché ne sono sicuro avrete presto una più comoda opportunità di incontrarvi. Ma le mie figliole saranno sempre felici di ricevere i loro cugini in qualsiasi parte si trovino. E troverai Mr. Ashworth sincerissimamente disposto a considerare tutti i nostri parenti come parenti suoi. Preferirei più di ogni altra cosa trovarlo segretario privato del primo lord dell'ammiraglio. Fu l'unica risposta di William, una risposta pronunciata a mezza voce per non essere udito dallo zio, e l'argomento cadde. Fino a quel momento Sir Thomas non aveva notato nulla di particolare nella condotta di Harry Crawford, ma quando il gruppo intorno al tavolino di whist si sciolse alla fine della seconda partita e, lasciati il dottor Grant e Mrs. Norris a disputare sull'ultima mano giocata, egli venne a far da spettatore all'altro tavolino da gioco, ebbe l'impressione che la nipote fosse oggetto di attenzioni, anzi, di dichiarazioni abbastanza aperte. Harry Crawford, tutto preso da un suo nuovo progetto circa la sistemazione di Thornton Lacey, non riuscendo a farsi ascoltare da Edmund, lo stava esponendo nei minimi particolari e con grande fervore alla sua bella vicina. gli era venuta l'idea di prendere in affitto la casa per il prossimo inverno, garantendosi così una dimora indipendente nei dintorni. E non pensava di farne uso solamente durante la stagione della caccia, come appunto stava dicendo, benché questa considerazione avesse naturalmente un certo peso, dato che si rendeva conto che, a dispetto di tutta la grandissima cortesia del dottor Grant, era impossibile sistemare lui e i suoi cavalli come erano ora senza sottoporre chi lo ospitava a un vero e proprio disturbo. Ma il suo attaccamento a quei luoghi non dipendeva unicamente dalla possibilità di praticare uno sport o da una data stagione. Quello che aveva a cuore era un'abitazione sua, lì vicino, dove gli fosse possibile venire in qualsiasi momento. Una piccola dimora fissa e a propria disposizione per passarvi tutti i periodi festivi ed essere così in grado di continuare, di approfondire, di perfezionare l'amicizia e l'intimità con la famiglia di Mansfield Park. Amicizia e intimità il cui valore aumentava per lui di giorno in giorno. Sir Thomas udì quelle parole e non se ne risentì. Non vi era alcuna mancanza di rispetto in quanto diceva il giovanotto, e il modo in cui Fanny ascoltava era così pieno di proprietà e di modestia, così calmo e privo di provocazione, che egli non trovava nulla da riprovarvi. Parlava poco, assentiva solamente di quando in quando e non tradiva nessuna propensione sia ad appropriarsi di una benché minima parte dell'omaggio, sia a incoraggiare la predilezione di lui per il Northamptonshire. Accorgendosi che proprio Sir Thomas lo stava osservando, Harry Crawford gli si rivolse direttamente, senza cambiare argomento, in tono più pacato, ma pur sempre pieno di sentimento. Desidero diventare suo vicino, Sir Thomas, come forse mi ha udito dire a Miss Price. Posso sperare nel suo assenso? Posso sperare che lei non influenzi suo figlio negativamente nel prendermi in considerazione come inquilino? Sir Thomas, con un cortese inchino, rispose: quello proposto da lei è l'unico modo in cui non potrei desiderare di averla permanentemente per vicino. Il fatto è che spero e credo che Edmund occuperà la sua casa di Thornton Lacey. Mi sbaglio, Edmund? Edmund, così interpellato, dovette prima essere informato su quanto era stato detto, ma appena afferrò il nocciolo della questione, non esitò nella risposta. Certamente, signore, non ho altro progetto se non di risiedere sul posto. Ma Crawford, benché la rifiuti come inquilino, venga da me come amico. Consideri metà della mia casa come sua durante ogni inverno e amplieremo le scuderie secondo il suo progetto di ristrutturazione, apportando tutte le migliorie che potranno venirle in mente per perfezionare detto progetto nella prossima primavera. Sarà una gran perdita per noi, continuò Sir Thomas. La sua partenza, sia pure per andarsene a sole 8 miglia di distanza, comporterà una penosa riduzione della nostra cerchia familiare, ma mi sarei sentito profondamente mortificato se mio figlio si fosse rassegnato ad agire in modo diverso. È perfettamente naturale che lei non abbia riflettuto a fondo sulla situazione, Mr. Crawford, ma una parrocchia ha delle necessità e delle esigenze che possono essere ben conosciute solo da un ecclesiastico che risieda sul posto e che nessun sostituto può essere in condizione di soddisfare in eguale misura. Edmund potrebbe, come si usa dire, sbrigare le sue mansioni a Thornton, cioè leggervi le preghiere e predicarvi, senza rinunciare a Mansfield Park. Potrebbe andarsene a cavallo ogni domenica verso una casa abitata solo nominalmente e svolgere le sacre funzioni. Potrebbe essere il parroco di Thornton Lacey ogni 7 giorni per 3 o 4 ore, se ciò lo potesse soddisfare, ma non lo soddisfa. Egli sa che la natura umana ha bisogno di più lezioni di quante non ne possano essere impartite in un sermone settimanale, e che se non vivrà in mezzo ai suoi parrocchiani e non dimostrerà con una costante sollecitudine che desidera il loro bene e che è loro amico, farà troppo poco per loro e per se stesso. Mr. Crawford si inchinò in silenzio, assentendo. Ripeto, aggiunse Sir Thomas, Thornton Lacey è l'unica casa nei dintorni dove non avrei piacere di salutare Mr. Crawford quale residente. Mr. Crawford questa volta si inchinò di nuovo, ringraziando. Sir Thomas, disse Edmund, senza alcun dubbio capisce i doveri di un parroco. Speriamo che suo figlio dimostri coi fatti di conoscerli anche lui. Qualsiasi fosse l'effetto prodotto dalla breve arringa di Sir Thomas su Mr. Crawford, Essa suscitò alcune spiacevoli sensazioni in altre due persone, che erano state fra i più attenti ascoltatori, Miss Crawford e Fanny. Questa, che mai prima di allora si era resa conto che Thornton sarebbe così presto e così completamente diventata la casa di lui, rifletteva a occhi bassi su quel che avrebbe voluto dire non vedere Edmund ogni giorno. E l'altra, strappata alle piacevoli fantasticherie alle quali si stava abbandonando, indotta dalle descrizioni del fratello, non essendo più in grado né di cancellare la chiesa dal quadro immaginato né di eliminare l'ecclesiastico, per vedere in Thornton solamente la rispettabile, elegante, rimodernata residenza saltuaria di un uomo dotato di larghi mezzi. Stava considerando Sir Thomas con decisa malevolenza, come il distruttore del bel sogno, tanto più risentita per non sapersi sottrarre all'involontaria sopportazione che il carattere e i modi di lui le imponevano, e per non osare dar sfogo ai suoi sentimenti, se non altro tentando di mettere in ridicolo la causa che gli difendeva. Tutto quanto vi era stato di piacevole nelle sue considerazioni per il momento era finito. Se dovevano prevalere i sermoni, era tempo di por fine alla partita a carte, per cui fu lieta di chiudere la contrattazione in corso e di potersi rinfrescare le idee cambiando posto e vicini di posto. Gli altri erano ormai radunati in gruppi sparsi intorno al fuoco, in attesa di prendere congedo gli uni dagli altri. William e Fanny rimanevano i più appartati, erano seduti insieme, vicino al tavolino da gioco, disertato dagli altri, assorti in una intima conversazione, estranei a tutto il resto, finché alcuni fra i presenti incominciarono a interessarsi a loro. La sedia di Harry Crawford fu la prima che si voltò in loro direzione, ed egli rimase ad osservarli in silenzio per alcuni minuti, mentre nel frattempo lui stesso era osservato da Sir Thomas, che in piedi continuava a conversare con il dottor Grant. «Questa è la serata del ballo al circolo», disse William. «Se fossi a Portsmouth, probabilmente vi parteciperei». «Ma tu non vorresti essere a Portsmouth, vero William?» «No, Fanny, non lo desidero. Portsmouth e il ballo mi interesseranno quando non potrò avere te». «E non so cosa ci sarebbe di bello per me andando al circolo, visto che potrei anche non trovare una dama con cui ballare». «Le ragazze di Portsmouth arricciano il naso quando guardano uno che ha il grado inferiore a tenente. Essere guardamarina equivale a non essere niente. E in effetti non si è niente. Ricordi le Gregory? Si sono fatte delle gran belle ragazze, ma mi rivolgono a malapena la parola perché Lucy è corteggiata da un capitano. Che vergogna, che vergogna! Ma non ci dar peso, William. Le guance le ardevano dall'indignazione mentre parlava. Non vale la pena di darvi importanza. Non lo fanno a te personalmente, non è nulla più di quanto su per giù è toccato ai tempi loro ai più grandi ammiragli. Pensaci, devi decidere di considerare la cosa come una delle prove che toccano ad ogni marinaio, proprio come le tempeste e la vita dura, ma con questo vantaggio che giungerà il momento in cui non dovrai sopportare più niente del genere quando sarai tenente. Pensa solo, William, quando sarai tenente, quanto poco peso darai a sciocchezze di questo genere. Incomincio a pensare, Fanny, che non sarò mai promosso tenente. Tutti vanno avanti tranne me. Oh, mio caro William, non parlare così, non lasciarti scoraggiare. Lo zio non dice nulla, ma sono sicura che farà tutto quanto in suo potere per farti avere la promozione. Sa, come lo sai tu, quanto sia importante. Tacque un tratto, scorgendo lo zio assai più vicino di quanto avesse pensato, e tutti e due giudicarono che fosse meglio parlare di qualcos'altro. Ti piace ballare, Fanny? Oh sì, moltissimo, solo che mi stanco subito. Mi piacerebbe andare a una festa da ballo con te e vederti ballare. Non si danno mai balli a Northampton? Sì, mi piacerebbe vederti ballare e ballare con te se tu lo volessi, poiché lì nessuno saprebbe chi sono e mi piacerebbe farti da cavaliere ancora una volta. Ti ricordi come saltellavamo insieme in passato, quando l'organetto capitava nella nostra via? Sono, a modo mio, un bravissimo ballerino, ma sono sicuro che tu mi superi. E rivolgendosi allo zio, che ora era vicinissimo a loro, vero che Fanny balla alla perfezione, signore? Fanny, sgomenta per quella domanda, di una disinvoltura senza precedenti, non sapeva dove guardare né quale risposta aspettarsi. Certo, un qualche solenne rimprovero, perlomeno una fredda espressione di indifferenza che avrebbe afflitto il fratello e avrebbe fatto sprofondare letteralmente lei. Invece, udì solo: «Mi spiace dire che non sono in grado di rispondere alla tua domanda, non ho visto ballare Fanny da quando era una bimbetta, Ma confido che tutti e due avremo modo di constatare che si disimpegna davvero gentildonna quando la vedremo all'opera, cosa che forse ci sarà possibilità prima che passi molto tempo. Ho avuto il piacere di veder ballare sua sorella, Mr. Price, disse Henry Crawford facendosi avanti, e mi dichiaro pronto a rispondere ad ogni domanda in proposito con sua piena soddisfazione, ma credo, vedendo che Fanny aveva un'aria smarrita, che dovrò farlo in qualche altro momento. Nel nostro gruppo c'è una persona alla quale non piace che si parli di Miss Price. Effettivamente, aveva visto ballare Fanny una volta, ed effettivamente era pronto a garantire ora che, eseguendo le figure della danza, si spostava con composta, leggera eleganza e perfettamente a tempo. Ma di fatto, per nulla al mondo avrebbe potuto rammentarsi in che modo ella aveva danzato, e pur dando per scontato che era stata presente quella sera, non gli riusciva di ricordare null'altro di lei. Fu classificato tuttavia fra gli ammiratori di Fanny quale ballerina. Sir Thomas, che certamente non era dispiaciuto, prolungò la conversazione sul ballo in generale e si impegnò con tanto zelo a descrivere i balli di Antigua e ad ascoltare quello che suo nipote aveva da riferire sulle varie danze che aveva potuto osservare in giro per il mondo, che non udì annunciare la sua carrozza e fu richiamato alla realtà dall'agitarsi di Mrs. Norris. Vieni, Fanny, Fanny, Fanny, cosa stai mai facendo? Stiamo andandocene, sbrigati, sbrigati. Non posso tollerare che ci si faccia aspettare dal povero vecchio Wilcox. Dovresti sempre pensare al cocchiere e ai cavalli. Caro Sir Thomas, abbiamo dato disposizione perché la carrozza torni poi a prendere lei, Edmund e William. A Sir Thomas non restò che assentire, visto che quelle erano le disposizioni date da lui e che egli stesso aveva comunicato in precedenza alla moglie e alla cognata. Ma Mrs. Norris, che doveva sempre pensare di aver predisposto ogni cosa personalmente, sembrava essersi scordata del fatto. L'ultima sensazione provata da Fanny durante quella visita fu di disappunto, poiché lo scialle che Edmund stava tranquillamente prendendo dalle mani di un domestico per metterglielo sulle spalle, fu afferrato dalla mano più svelta di Mr. Crawford. E così dovette essergli debitrice di quella sua più appariscente attenzione.